Sindacologia 1. Renzi è di destra. Tre sindaci e tre Tumblr da visitare. Cos'è Tumblr? Possiamo definirlo grossolanamente un sito che offre un servizio di blog molto semplificato. Sindacologia, dunque, partiamo da quello che a mia opinione è il più sottilmente divertente. Prende in giro tutti quelli che sostengono che Matteo Renzi è di destra, e anche nel PD non sono pochi. Si chiama Renzi che fa cose di destra, trovate il link sul nostro sito. Qualche esempio: foto del sindaco di Firenze con alcuni bambini e un poliziotto, didascalia, Renzi che sorride per l'arresto di 6 piccoli immigrati irregolari. Oppure foto del sindaco vicino ad uno stand alla festa del PD, didascalia, Renzi che contamina il cibo della festa dell'Unità senza farsi vedere. In evoluzione, ma promette bene. Sindacologia 2. Gigino e l'amore. In nome di Gigino Re, creato da Ciro Pellegrino, che qua abbiamo ospitato, si occupa del sindaco di Napoli e delle sue esternazioni su Twitter. Da dire che De Magistris o il suo staff usano il mezzo abbastanza bene, rispondono anche su temi che riguardano la città, ma qua è raccolto altro, tipo il mare, l'infinito, la terra, la profondità, le radici conosciute e da scoprire. Liberiamo le energie dell'amore per vivere senza sopravvivere. Parola dunque di Luigi De Magistris. Oh signore! Sindacologia 3. Anvedi. Questo, almeno in rete, è un po' più noto. Si chiama Alemanno guarda e cose e sono foto del sindaco di Roma con didascalie riviste, fatto sull'esempio di un sito simile creato sulle foto dell'ormai defunto leader coreano Kim Jong-il. Non vi dico niente, andate e visitatelo. Io mi ci perdo ogni volta e rido da solo davanti al computer. Sindacologia 4. Linea verde. E questi sono complimenti. Vanno al sindaco di Milano, Pisapia, o più facilmente al suo staff per l'uso di Twitter in occasione dell'incidente alla metropolitana di Milano. Informazioni quasi in tempo reale, risposte ai cittadini sul funzionamento delle linee, semplicemente perfetto. Chiudiamo qua questa prima parte, ci ritroviamo tra poco per il punto settimanale di Stefano Folli.